I sindaci in alcune zone possono aver paura per dei no pronunciati. Ma io credo di sì, io credo che questo rischio ci sia, cioè nel senso che è evidente che diciamo soprattutto in zone nelle quali c'è un grosso interesse economico da parte della, diciamo, ci possono essere grossi interessi economici, la criminalità può farsi presente. Nel momento in cui si fa presente e cerca di insinuarsi, il no può diventare un elemento essenziale. Ovviamente stiamo parlando di semplici ipotesi, ma il problema è che la criminalità organizzata cerca di essere presente in tutti i posti in cui ci sono affari da farsi. Ma a questo punto, nel momento in cui i sindaci di centri più o meno importanti, Acciaroli è diventata il punto di riferimento del turismo di questa zona anche abbastanza ampia della Campania, nel momento in cui gli interessi economici e anche i centri di spesa di alcuni enti locali ricadono sempre più in modo più forte sugli amministratori, ecco, anche con il federalismo il rischio per gli stessi amministratori aumenta? Credo di sì, perché diciamo il problema è che la criminalità ha dimostrato in passato di essere in grado di insinuarsi soprattutto con le sue presenze negli enti locali. E basterebbe vedere il numero di consigli comunali sciolti, basterebbe vedere gli interessi che la camorra, la mafia, l'andrangheta evidenziano con riferimento alle elezioni della regione, della provincia, la presenza di amministratori chiacchierati o collusi. Quindi la criminalità organizzata manifesta sempre una grande presenza quando si tratta di elezioni di quel tipo, e questa presenza rischia di essere ancora più interessata per la criminalità organizzata quando i centri di spesa si trasferiranno soprattutto sugli enti locali. Maggiore sarà la capacità di intervento nei settori degli enti locali, a maggior ragione quegli enti ingolosiranno, per utilizzare un'espressione inequivocabile.